Entro nella traccia come Gesù Cristo, sono crocifisso, trovo Adam dall'altra parte del letto, io l'abbraccio con diletto, l'aspetto, sì, col cazzo in mano, lo aspetto, sì, con la sbarra nella mano, sì, io mi seguo davanti al letto di Adam, sì, aspetto la sua faccia brava, sì, sono come Carlo, rappo come Dante, aspetto nel suo cazzo di letto, con diletto, MC. Ed è proprio qui che io prendo il visto, MC non ha capito, sì, che noi siamo tanti, chi sulle tracce, respingenti, repellenti, senti sicuro, sì, occhiali, quei occhiali di merda, tu non capisci un cazzo, perché lo sai, io uso il mio mazzo, baby, mago nero, baby, drago bianco, occhi blu, yo! Baby on the beat! Baby! E io mi metto! Oh! E perché baby MC, yo! Devi entrare lì, per favore, non sappiamo più che dire, per favore. Negansi, io va con te. Non lo so come entrare, cazzo. Entrerò come Adam Zani, sì, lui è il mio ragazzo, No, non è vero, non sono omosessuale, però mi piace fare un po' di anale, è più petto la bussi, lo sanno tutti, Forse di altri. Lascio un po' di respiro nella traccia, voglio fare sentire questo beat che smazza le rime, sì, le rime, rime. Senti questo beat, sì, la Apex Twin. Non so fare il meglio io a casa mia. No, non lo so fare, sì, perché ho Ableton, ma non so usare molto bene. Senti queste rime che ti smazzo, sulla traccia, Hey. Mio maestro è Ossustipo 96 Neff, sì, su DJ, sul beat. Le mie rime fanno tipo schifo, con i fumili dai beat, sì, tipo, entro sulla traccia come Gesù Cristo, l'ho detto prima ma mi ripeto perché non so più che dire, dico solo cazzate sul beat, Per fortuna qui c'è Agacciani, posso dire beat sul suo nome, posso fare rime sul suo nome, fanno sempre ridere. Feel the beat. Feel the music.